Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Beh, oggi partirei da un breve avviso ai naviganti, e cioè questo: domenica l'ultima di campionato non si gioca più alle 20:45 come da programma. Forse qualcuno ricorderà che almeno le ultime quattro partite erano sempre state difese, fatto di contemporaneità, eccetera. È vero che quest'anno tutto è praticamente risolto, ma insomma si era deciso di giocare tutti alle 20:45 e invece si gioca a rate anche in questa domenica. Alle 18 le partite che non contano più per la classifica, alle 20:45 le quattro che ancora vedono in palio qualcosa, e cioè Udinese-Milan e Lecce-Lazio per quello che riguarda il quarto posto, Juventus-Napoli e Roma-Sampdoria per quello che riguarda l'ultima piazza utile per l'Europa League. Nel frattempo Philippe Mexès è ufficialmente un giocatore del Milan, Antonio Conte è quasi l'allenatore della Juventus, come da dichiarazione che tra poco ascoltiamo di Pavel Nedved, consigliere d'amministrazione della Juventus, che suona effettivamente un po' come una pre-investitura. L'allenatore della Juve ancora del Neri e che finirà sicuramente la stagione. Poi dopo, se la società prende altre decisioni, quello non lo so, però devo dire che le somme sono sempre tirate alla fine e non siamo ancora alla fine perché ci manca ancora una partita. Non credo che la Juve abbia voglia di perdere altri 3 punti, ma io lo so che lui era nel suo destino di diventare allenatore, perché se me lo ricordo bene lui è stato sempre molto bravo come giocatore. Diciamo che è stato il pilastro della Juve dove giocavo io, e ci siamo appoggiati sempre su di lui. Era suo destino diventare forte anche come allenatore, allora io gli auguro di fare grande carriera. L'appuntamento con il calcio internazionale e con Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Senti, noblesse oblige, come direbbero quelli che sanno. Io partirei stavolta da Alex Ferguson, perché intanto è più sir che mai, ma perché mi sembra che insomma anche i numeri siano incredibili nella leggenda di questo personaggio. Ma sono incredibili anche perché da quando è arrivato lui il Manchester ha iniziato a scalare la vetta di dell'Albo d'Oro, dove sono appunto enumerati i titoli. Ma ne ha vinti 12 questo? Ne ha vinti 12 da solo, sì. Beh, ma tieni anche conto che insomma allena questa squadra da 25 anni. Che comunque fa una media di 1 su 2. Sì. Cioè già impensabile, però onestamente è impensabile ad ogni latitudine, cioè lui è veramente certo un'eccezione. Io penso che soltanto gli allenatori dei college americani universitari abbiano questa longevità. Lui rimane comunque un'eccezione in un campionato dove ci sono altre situazioni di allenatori. Penso ad esempio a Wenger, che comunque probabilmente termina quest'anno, con allenatori che allenano da moltissimo, però lui è onestamente imbarazzante. Il paragone con chiunque è imbarazzante. Lui ha vinto 12 titoli, adesso il Manchester United ne ha vinti 19, ha scavalcato il Liverpool, tenendo conto che il Liverpool non vince più o meno da quando è arrivato Sir Alex Ferguson, perché Ferguson è arrivato nell'86, insomma il Liverpool è fermo da tantissimi anni. Questo che cosa significa? Significa che lui ha visto passare un paio di generazioni, se non 3, di calciatori, certo. Direi più 3 che 2. Forse ha vinto meno a livello europeo di quello che si poteva immaginare, ma ha a disposizione ancora una finale di Coppa dei Campioni, di Champions League. Lui ha vinto 2 volte la Champions League, devo dirti in 2 modi abbastanza avventurosi, perché insomma la vittoria contro il Bayern di Monaco fu leggendaria, sì. E tutti si ricordano quei 2 gol nei minuti finali, e la stessa vittoria di Mosca arrivò grazie a un rigore sbagliato da John Terry scivolando, senza togliere nulla ovviamente a Ferguson, che comunque a me piace, quando quelle volte che ho la fortuna di parlare di lui, a me piace anche ricordare un'altra cosa, e che magari passa abbastanza sotto traccia, e cioè che quando in Scozia, perché stiamo sempre parlando di un signore nato a Glasgow nel 1941, quando in Scozia il dominio delle due squadre di Glasgow, e cioè i Rangers e il Celtic, è diventato totale, cioè hanno cominciato a vincere chi più chi meno tutti i titoli, cioè l'ultima squadra non di Glasgow, cioè della città natale di Ferguson, a vincere un titolo fu l'Aberdeen, e lo fu guidato da Sir Alex Ferguson, certo. Insomma stiamo parlando del campionato 84-85. Poi l'anno dopo lui andò al Manchester United e fece esattamente le stesse cose, cominciò a vincere anche lì e ha secondo me segnato un'epoca in maniera indelebile. Comunque 12 scudetti in 25 anni sono tantissimi, 25 sì. anni forse ancora più sbalorditivo come durata, no? di su una panchina di quanto invece di quanti non siano i trofei raccolti da questo personaggio. Sì, tra l'altro, curiosamente, Gigi, lui ha iniziato a vincere al Manchester United nel 93, quindi ha avuto anche il tempo di lavorare, perché non ha vinto subito, no, certo. Quelli non erano anni non erano anni fecondi per il Manchester United, che invece aveva vissuto anni migliori precedenti. Che gli ha dato 7 anni di vantaggio, no? Sì, sì, sì. Mi tornava in mente ieri, al Salone del Libro, conversando con Camolese, che non è Ferguson, non diventerà mai, ma che è un giovane saggio e che a un certo punto ha tirato fuori un'espressione magnifica, secondo me, che se ci ha autorizzati a rivenderci, su questi allenatori che vengono presi per poche partite e poi rimandati via, no? Sai, le sostituzioni in corso, come è successo quest'anno. Lui li chiama gli allenatori gratta e vinci, che non è male com'è. Bella, molto bella. È vero che è molto carina. Molto bella, molto bella. Noi abbiamo questa moda dell'allenatore gratta e vinci, loro per 7 anni magari non vincono, no? E quindi ci sarà stato qualcuno a Manchester che magari era di estrazione italiana e diceva: ma come, ma mandiamo via questo sì. dell'Aberdeen, eccetera, eccetera. Ecco, e poi si sarebbero persi 12. 12 scudetti. È stato un grande sabato comunque per la città di Manchester, perché mi pare che anche l'italiano, insomma, anche qualcosina abbia portato quest'anno lì. Come no, come no. È stato un grande sabato ed è, credo, un evento storico, perché il Manchester City non vinceva l'FA Cup dal 69, cioè quando è nato chi vi parla, e non vinceva una Coppa di Lega, credo, dal 76. E quindi il fatto che quella Coppa l'abbia alzata Mancini, e questo aumenta ancora di più il fatto che la considerazione che Mancini è uno specialista di coppe nazionali, perché ne ha vinte una miriade sia da giocatore che da allenatore, e insomma è evidente che ha una mano particolarmente pronta per quella competizione. Ma al di là di tutto, Balotelli ha giocato una buonissima partita. Sì, alcuni tifosi italiani che hanno visto la partita lì mi dicono che quando è stato nominato man of the match lo stadio si è un po' stupito, cioè pensavano a Yaya Touré anche come honoris causa, non solo per il gol, ma perché aveva segnato il gol che aveva portato il Manchester City in finale battendo lo United sempre a Wembley. Ti interrompo un istante, Fabio, è il momento di andare a sentire come va sulle strade. Torniamo in compagnia di Fabio Tavelli e del calcio internazionale. C'è in questi finali di stagione, io trovo particolarmente affascinante la lotta per la salvezza in Inghilterra. Poi adesso lo è diventata anche in Spagna. Da noi si è chiusa stranamente anzitempo, perché è in controtendenza. Ma trovo che il fascino di partite come West Ham Wigan, per esempio, sia superiore a partite di cartello per il titolo. Sì, perché comunque accadono adesso. Poi magari la qualità e la cifra qualitativa complessiva non è altissima, certo. Però succedono, Gigi, sempre delle cose memorabili, e io te ne cito due. La prima è che il West Ham disperato va in vantaggio 2-0 sul campo del Wigan. Wigan è penultimo in classifica in questo momento, e oggi finisce il campionato sarebbe retrocesso. Cosa succede? Va avanti il West Ham 2-0, quindi riapre la porta alla speranza per il West Ham, che comunque avrebbe dovuto fare altri miracoli. Comunque intanto era ancora vivo. Cosa succede? Calcio di punizione dal limite per il Wigan, sulla palla ci va Rodallega, che vuole battere di destro, sul pallone piomba il capitano del Wigan, Caldwell, e dice: fermati. Rodallega la tira Zogbia di sinistro, i due discutono, Caldwell mette il piede sul pallone e dice: la tira lui, la tira Zogbia, e fa gol. Da lì parte un altro film, siamo nel secondo tempo, il West Ham recupera, pareggia, e al 94esimo, tempo scaduto, chi fa il gol del 3-2 che ridà ancora un po' di ossigeno al Wigan? Ancora Zogbia, e questa è una scena secondo me memorabile. E l'altra è l'aereo dei tifosi del Millwall che passa sopra quando finisce la partita, con scritto Avram Grant, Millwall Legend, cioè il Millwall è la grande rivale. Esatto, i rivali hanno affittato questo Cessna, questo Piper, non lo so, con tipo quelli che si vedono al mare d'estate, che fanno le pubblicità, con scritto Avram Grant, Millwall Legend, perché Avram Grant, mano di fata, anche quest'anno retrocede pure, esatto, come ha fatto il Portsmouth l'anno prima, e quelli del Millwall sono molto contenti di questo e gli hanno dedicato questo onore, questo tributo. Senti, capitolo Spagna, mi sembra che possano essere due. Uno, una lotta salvezza che per una volta è simile a quella inglese, sì, perché sì. Mi sembra ammucchiata, eccetera. E poi c'è il il titolo di capocannoniere, che rischia, anzi è già nella storia, ma rischia di esserlo davanti a tutti. Guarda, c'è una diatriba, perché il PCC lo istituisce Marca, e quindi è Marca a decidere. Il problema qual è? È che Marca accredita un gol in più, Marca accredita un 39, quindi sarebbe record, perché il record era di 38. Per tutti è di 38 quello di Cristiano Ronaldo, per Marca è 39, perché contro la Real Saragozza Cristiano Ronaldo segna su punizione. In realtà poi dalle immagini si vede che la palla la devia in maniera nettissima Pepe in barriera, quindi formalmente il gol dovrebbe essere di Pepe, perché comunque le deviazioni degli avversari non danno, cioè il gol lo fa, viene attribuito a chi lo tira. Se la devia un tuo compagno, anche se non è una deviazione voluta, deve essere attribuito a lui. In questo momento Marca.com scrive una dichiarazione di Pepe che dice: il gol è di Cristiano Ronaldo, che beh, ci sta, perché ovviamente a Pepe non gliene frega nulla di avere un gol in più o meno, a Cristiano Ronaldo magari sì. Io credo che sarebbe forse la volta buona per riaprire il dibattito sull'assegnazione dei gol. Sì, non c'è nessun dubbio. Gol e autoreti, certo, e autoreti soprattutto, perché quelle determinanti è veramente abbastanza ridicolo che venga attribuito. Sì, all'autogol del Bari di domenica. Certo, non è possibile. Poi è chiaro che è bello, perché tutte le statistiche vengono migliorate. Quando un record viene migliorato è sempre una cosa... però vediamo anche come vengono migliorati. Sì, fermo restando che poi mi pare, non so con chi gioca Real domenica, ma insomma un gol Ronaldo a occhio. Sì, no, a occhio lo fa, perché non è in una fase brutta della sua stagione. Io credo che farne 38-39 non gli cambi granché, però comunque... è una statistica, se mi passi il termine, orribile, un pochino a peso lordo piuttosto che a peso netto. Comunque insomma, in classifica, la classifica della Liga è davvero interessante in fondo, perché rischiano di andare giù squadre anche importanti, e ci sono domenica 5 partite decisive: Mallorca, Atletico Madrid, Real Sociedad, Getafe, Levante, Saragozza, Deportivo Valencia, Osasuna, Villarreal, e da qui ce n'è una che scende, per cui insomma. Senti, nel panorama, prima di arrivare poi alla finale di Europa League di domani sera, nel panorama europeo mi pare spicchi questo Lille, perché anche questo non so quanti anni erano che non vinceva, mi sembra decenni, si è già messo in bacheca la Coppa di Francia, che comunque non è male, e ha l'intenzione di ormai è quasi a un passo, mi pare, no, dalla doppietta. Sì, anche perché il Marsiglia si è tra virgolette suicidato pareggiando con Lorient nell'ultimo turno di campionato, e quindi è praticamente fatta, tra l'altro in una stagione disastrosa per i grandi club, diciamo non disastrosa per il Marsiglia, comunque arriva secondo anche se da campione in carica, ma il Lione arriva terzo e sarà costretto a passare dai preliminari in agosto, quindi con tutti i problemi che questo può comportare, cioè il fatto di iniziare prima la preparazione e tutto il resto, e poi c'è il Monaco, che oggi sarebbe retrocesso. Il Monaco ha 41 punti, insieme al Lens e al disastroso Arles-Avignon finirebbe la stagione nella Ligue 2, e questo insomma mi sembra un altro fattore di un campionato davvero bello, onestamente, quello francese, perché ci sono tanti giovani interessanti, ci sono state tante situazioni, non a caso l'Inter sembra voler andare a prendere un giocatore del campionato francese, è proprio del Lille, mi pare, no? Questo, sì, fantasista, questo e il fatto che questo campionato metta in mostra, poi anche qui al netto di tutto quello che abbiamo letto e sentito dire, sponda nazionale, quote arabe, quote nere e quant'altro, cioè mi sembra un campionato che abbia due caratteristiche fondamentali: la freschezza, nel senso che ci sono moltissimi giocatori nuovi e moltissimi giocatori ricchi di talento, e il fatto che questi, venendo visti sì e no, più no che sì, costino anche abbastanza poco, quindi non mi stupisce che Inter e Milan, ma non solo, stiano andando a pescare lì, perché comunque insomma, lì il Milan ha preso Taiwo che ha fine contratto, e l'Inter probabilmente prenderà Hazard, che è un bel 91, piccolino, però con discreti numeri. Ma sai, piccolino... No, piccolino è piccolino anche Messi, però appunto. Messi è... è abbastanza unico nel suo genere. No, che discorso, pensavo agli Xavi, pensavo ai Dani Alves, che sono quelli che quando li vedi, no, con i schierati che ci sono gli inni o comunque le cerimonie inizio partita, guardi lo vedi gli avversari, cosa? Sì. Poi la telecamera deve scendere, deve abbassarsi, sì. Beccare i nani, no, Busquets e Piqué sembrano due giocatori di basket, è vero. E poi alla fine però la palla la vedi a tratti, insomma. Sì, te la ridanno alla fine per controllare che non fosse di cioccolata. Dunque, finale Coppa del Portogallo domani sera, no? Anche se credo non sarà facile convincere il grande pubblico, no? A vedersi una finale Coppa del Portogallo vestita da finale Europa League. Però non è che non ci siano motivi di curiosità, No, anzi, perché lo Sporting Braga è quasi una storia da calcio inglese, perché lo Sporting Braga ha visto l'eliminazione in faccia due o tre volte. È una squadra che è andata ad Anfield a pareggiare, una squadra che è passata con la Dinamo Kiev con due pareggi, è una squadra che sembrava spacciata nella sfida col Benfica. Cioè, no, ha tutte le caratteristiche davvero del miracolo. I casi sono due: o ha dato tutto e in finale si consegna al Porto, che è clamorosamente più forte, superiore, sì. oppure invece continua nel miracolo. Questo secondo me è già un motivo in più per appassionarsi, e poi magari anche per vedere questo Porto, perché noi che non vediamo il campionato portoghese, che queste notizie le abbiamo sempre comunque purtroppo di seconda mano, però abbiamo abbastanza trascurato questa stagione davvero clamorosa da parte del Porto e di un allenatore che non soltanto la Juventus sta cercando, perché Villas-Boas davvero può rappresentare una novità importante, una novità seria. E insomma, poi se andiamo a vedere com'è finita la stagione, il Porto ha 84 punti, lo Sporting ha 46, cioè stiamo parlando di una competizione che nel pugilato non verrebbe ammessa, certo, proprio per differenza di peso e di categoria. Però poi la partita singola non è la prima volta che ci riserva sorprese. E poi comunque prima di alzare il sopracciglio piuttosto che la narice di fronte al Braga, che effettivamente è una squadra di poco nome, ricordiamoci che c'erano squadre dal nome più illustre, per esempio italiane, che erano iscritte a questa competizione e che sono finite fuori quasi tutte come ramazze. Hanno finito la stagione quando c'era ancora l'ora solare. Ecco, quindi insomma, piano poi con lo sminuire questa finale di questo trofeo. Fabio, grazie anche per stavolta. Grazie Gigi, ciao a tutti. Qualche messaggio, per esempio: chissà se la carriera di Sir Alex, farà almeno ragionare i dirigenti Juve, scelgano un allenatore giovane e poi lo facciano crescere, anche se arrivasse quindicesimo, scrive Fede d'Alessandria. Beh, insomma, arrivasse quindicesimo, so se vedo il settimo posto. È vero che Del Neri non è giovane, ma insomma, credo che dopo qualche anno così la pazienza sia esaurita, ed è inevitabile che sia, no? Perché dipende sempre dalle dimensioni in una squadra, dalle tradizioni e quindi dalle aspettative. Dunque, noi domani, scrive Emanuele da Modena, partiamo da Modena per seguire il Braga in finale Europa League. Beh, questa sinceramente è una gita abbastanza inattesa, ma sto Braga deve aver creato qualche suggestione, perlomeno tra il nostro pubblico. Fabio Flora scrive da Udine: per forza il Braga ha una storia da calcio inglese, alla sua fondazione scelse come divisa quella del mitico Arsenal degli anni 30. Cominciamo con i vostri interventi in diretta di oggi e poi sentiremo qualche contributo interessante che invece arriva da fuori. Moreno, provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Senta, volevo fare una denuncia che è spiacevole, guardi. Io sabato sono stato con mio figlio di 13 anni e un suo amichetto, no? A Milano a vedere la festa Scudetto, insomma. Sì. Siamo arrivati al secondo anello, perché io non sapevo quale zona era, il settore blu. Ci mettiamo seduti, i posti numerati, arrivano gli ultras, in tono minaccioso, arrogante, ci dicono: dovete andare via, perché questa qui è zona nostra. E io dico: come? Io ho i biglietti, ho pagato tutto, fate il viaggio, sto qui, no? No, voi qui non contate niente, questo è il nostro settore da 20 anni, sicché con mio figlio, che ovviamente ha avuto un po' paura, siamo dovuti spostarci di 3-4 scalini. Ci mettiamo lì, arrivano altri ultras lì, incominciano a preparare il fumo, insomma, di fronte a mio figlio che ha 13 anni. sniffano cocaina e a mio figlio gli hanno fatto buttare via una bottiglia di acqua. Cioè, io sono robe assurde che devono esistere queste cose dentro gli stadi ancora. Steward, presenza di steward? Lì la curva del Milan, nessuno. Interventi eventuali di steward? No, non se ne parla più. Ho cercato, ho provato un po' a ribellarmi, ma mi hanno subito minacciato. Mm-hmm. Cioè, io con due bambini cosa devo fare? Cioè, è una roba vergognosa. Andarsene e pensare che la prossima volta il tempo libero si può impiegare diversamente e uno scudetto si può festeggiare, per carità, ma anche a distanza eventualmente. Moreno, cosa vuole? Non è la prima volta che questo programma, come altri, d'altra parte diventa uno sportello, un ufficio reclami, un ufficio... Ma in questo caso direi un ufficio indignazione, perché d'altra parte io non credo si possa ritenere responsabile una società di questo, è un sistema che non... Ma come fanno a entrare questa gente ancora? E come fanno? So già detto Moreno, lei, Moreno, su, cioè, dovrebbe sapere in che paese viviamo in che calcio ci muoviamo. Questi sono dentro da prima, questi sono i padroni loro, gliel'hanno detto, guardi che qua ci siamo noi. Io adesso non vorrei sembrare cinico, ma se gliel'hanno detto bene e se non sono passati via di fatto, direi che l'è già andata bene. Marco Novara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Sabato, io ho letto sulla Gazzetta, ma l'ho visto anche poi su altre testate, Del Nero ha detto: io non rifarei tutto quello che ho fatto durante la stagione, non mi pento di niente. Poi ieri ho ascoltato una vostra disamina della stagione, 48 gol subiti, più del Bari in casa. Secondo me, vabbè, io lo stimo Del Neri come persona, a prescindere poi da tutto come è andato quest'anno, però secondo me qualche non c'è, bisognerebbe anche dire sì, sicuramente qualcosa non è andato per come doveva andare, perché non puoi dire che non cambi niente se poi prendi più gol di quella della squadra che è retrocessa. E un'altra cosa mi è piaciuta quando a gennaio è rientrato Buffon. Lui secondo me non voleva farlo giocare e lì secondo me lo spogliatoio degli acquisti nuovi lo ha delegittimato. Difatti, se lei nota, può anche darsi sia dietrologia, però come è entrato Buffon la Juve ha sbragato. Sì, poi il rapporto di causa-effetto, Marco, si può anche discutere, perché insomma io credo che Del Neri abbia avuto seri problemi, credo, non credo da fuori così a occhio, che abbia avuto qualche problema di gestione dei campioni. Capita spesso agli allenatori che a 60 anni si ritrovano fuori dimensione rispetto a quella che avevano sempre vissuto prima, non che Del Neri prima della Juventus avesse allenato soltanto dei giocatori modesti, no, non sto affatto dicendo quello, però diciamo che la gestione di Cassano a Genova per esempio non era stata semplicissima e c'era stato bisogno di un forte appoggio della società per venire a capo per esempio dei capricci di Cassano. Poi curiosamente pare sia andato abbastanza d'accordo con Del Piero a Torino, che invece rappresentava il problema cronico, no, degli allenatori precedenti, anche di quelli che vincevano come Cappello, e invece magari lui si è impantanato o comunque ha avuto problemi con Buffon, anche perché c'era un recupero lungo, difficile di cui tenere conto e da gestire. Credo che al di là di tutto la gestione del campione rappresenti un banco di prova, un test che divide gli allenatori, che divide una categoria di allenatori da un'altra, indipendentemente poi dal valore tecnico di quell'allenatore. Da Bergamo in linea Alfredo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Senta, sono leggermente in disaccordo con quanto avete detto, perché lo stesso identico problema che si è posto quest'anno si è posto anche l'anno scorso. Allora vuol dire che anche Ferrara e Zaccheroni poi non sono riusciti a gestirsi i campioni, eccetera. Invece io ritengo, a mio modesto parere, che i giocatori quest'anno abbiano fatto pienamente il loro dovere, hanno ottenuto il massimo di quello che potevano ottenere, perché sono giocatori da settimo o ottavo posto e lo hanno centrato, sono stati bravi. La mia domanda è: ma cosa ci fa Marotta alla Juventus? Perché non si può spendere tutta quella marea di quattrini per comprare quattro giocatori che non valgono probabilmente la Serie B. Ma voi vi rendete conto che ha speso l'ira di Dio per Martinez? Sì, per Motta, Alfredo, per siamo d'accordo. Poi l'importante è, come sempre, esagerare, no? Perché adesso che questi giocatori non valgano nemmeno la Serie B è la tipica sciocchezza da tifoso, no? Da tifoso non ultra, perché da tifoso ultra di spirito, intendo, non certamente di comportamenti. Questo è eccessivo, perché deve dire che questi giocatori non sono la Serie B? Guardi una partita soltanto del campionato di Serie B e vedrà qual è il livello. Quindi questi giocatori ci stanno. Non c'è bisogno di dire a questi giocatori che non valgono la Serie B, c'è bisogno di dire, basta dire ai giocatori che non sono da Juventus, che non sono giocatori in tradizione in linea con la Juventus. Dopodiché, sull'assunto iniziale, io invece sono d'accordo. La Juventus l'altro anno ha puntato su un ticket che si chiamava Marotta del Neri. Il conto lo paga del Neri. Boh, io che lo debba pagare soltanto del Neri, il conto lascia un pochino perplesso anche me. Andrea scrive un messaggio che dice: Garanzini, ma che delusione il suo commento alla telefonata sugli ultra. La condanna morale sarebbe stata d'obbligo senza far trasparire l'assegnazione, perché le pare che io invece moralmente non condanni un gesto di questo genere? Secondo lei io sono d'accordo o sono connivente con questa gentaglia? No, soltanto so come va il mondo, soprattutto so come va il mondo nelle curve degli stadi da qualche decennio almeno, e credo non soltanto in Italia in modo particolare. E allora cosa facciamo? Invece di far trasparire l'assegnazione continuiamo a prenderci in giro? Se preferisce, va bene, la prossima volta farò così. Grazie Andrea. Daniele, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, io sono tifoso milanista, però periodicamente si parla di rifondare le squadre con i giovani, lo fanno anche i tifosi questo, ma mi chiedo che pazienza abbiamo poi di far crescere i giovani? Ma io certo, questa è la domanda, è la domanda corretta da farsi. Esatto, perché poi gli altri hanno i vari Affellai, Bojan Kerkic e via discorrendo, senza andare a prendere Messi che l'hanno preso da piccolino e l'hanno fatto crescere. E noi credo che tifosi, io ripeto, da milanista ho visto quest'anno quando si paventava una squadra under 24, abbonati 14-15 mila, preso Ibrahimovic e Robinho, grandissimi giocatori, abbonati 40 mila. Certo. Penso che sia un pochino... che dica un pochino tutto anche questa cosa. Ma grazie, buona giornata. Si capisce, Daniele, così come dice un pochino tutto che Allegri ha fatto centro al primo tentativo, perché è un bravo allenatore, una persona seria, perché si vedeva già al Cagliari che questo aveva, sia per le scelte tecniche e tattiche sia per gli atteggiamenti, aveva le stimmate dell'allenatore a grande squadra. Dopodiché gli hanno comprato Ibrahimovic e Robinho prima e qualcun altro a gennaio, sicché non dico che sia facile allenare così, ma insomma, tra questi due qua, tra Boateng, tra Van Bommel quando è stata ora che era il momento del bisogno, cosa? Poi ho letto nelle disamine di fine stagione che indipendentemente dalla vicenda finale del coro villano, ma ho letto che tra i protagonisti di stagione c'è stato Gattuso. Beh, vabbè, allora, voglio dire, se queste sono le analisi tecniche sul Milan, va bene, cioè, va benissimo. Io credo che credo che siano gli altri che hanno contato. Gattuso, come altri, ci ha messo impegno, ha avuto qualche occasione in più, per esempio, che nella gestione precedente, ma se insomma, c'è stata un'epoca in cui Gattuso incideva nel gioco del Milan. Quest'anno, sinceramente, nei momenti, ho visto in certi momenti Gattuso playmaker e non erano i momenti migliori del Milan. Il signor Moreno, scrive Marciano, non si deve stupire. Il suo racconto è la ragione per cui non vado allo stadio da 20 anni. In Italia il mio figlio per la prima volta l'ho portato in uno stadio all'Emirates di Londra a vedere l'Arsenal. Alberto, Milano, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Sono un felice tifoso milanista per la vittoria dello scudetto. Senta, volevo solo fare una considerazione velocissima che secondo me è stata un fatto che è stato poco evidenziato quest'anno della stagione del Milan. Cioè che il Milan ha fatto 9 punti con un gol di Strasser, un gol di Gattuso e un gol di Flamini. Quindi verissimo Robinho, Pato, Ibrahimovic eccetera, però poi i punti che fanno la differenza con la seconda in classifica nascono da, tra virgolette, un po' di casualità anche, no? Nel senso che bastava 0-0 a Cagliari, 0-0 con la Juve, certo. Probabilmente il campionato non era così facile. Certo, quindi, con tutto questo... Si è, mm-hmm. si è instaurata una stagione fortunata, e nella fortuna, quando tu vinci 1-0 a Cagliari con gol di Strassier all'88esimo, vuol dire che è proprio l'anno buono. Non c'è nessun dubbio su questo. Mi sembra un'analisi seria la sua. Sentiamo con l'aiuto di Nicola Filippone che cosa è accaduto in un 17 maggio. Sembra ieri. 17 maggio 1953. Alla presenza del capo dello Stato Luigi Einaudi viene inaugurato a Roma lo Stadio dei 100.000, che con i giochi del 60 diventerà definitivamente lo Stadio Olimpico. Nell'occasione si gioca una gara valida per la Coppa Internazionale tra la nazionale italiana, allenata da Meazza, e l'Ungheria. In campo non c'è partita. I magiari dominano e si impongono per 3-0 con gol di Deguti e doppietta di Puskas. Ma in pochi, a fine partita, parlano di disfatta italiana. La grande Ungheria vive infatti la sua fase di massimo splendore. Pochi mesi più tardi se ne accorgeranno anche i maestri inglesi, a cui Puskas e compagni andranno a impartire una lezione direttamente nel sacro domicilio di Wembley. Beh, una bella data anche oggi, quella accolta da Nicola Filippone. Mario è in linea da Mantova, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. Una considerazione, ma date tutti i soldi che la Juve ha sperperato in questi ultimi anni, se questo Villas Boas è tanto bravo come si dice, perché non spendere questi 15 milioni di euro che è la clausola rescissoria e prenderlo lo stesso? Tanto si buttano via tanti soldi per prendere tanti giocatori che non valgono, tanto vale che almeno uno rischia e prova a prendere un giovane di talento, 5 anni di contratto, poi fra 5 anni vedi quello che succede. Cosa ne pensa lei? Il contrario, esattamente il contrario. Se io intanto non credo, è vero che la Juve ha annunciato, e l'ha annunciato per bocca di Alcane, non soltanto di Andrea Agnelli, che la Juve quest'anno investirà più massicciamente che non nel recente passato. Però insomma investirà massicciamente, intanto bisogna poi vederlo. Lo stadio darà delle risorse, insomma non darà delle risorse immediate, perché non è che fai la campagna adesso con quello che riceverai in più dallo stadio, ma insomma ti puoi fidare che poi lo stadio ti darà di più e quindi puoi investire di più. Poi però bisognerà davvero vederle, verificare le cifre, tenendo conto che la Juventus, come sappiamo, ha mezza squadra da riscattare, e quindi credo che già alcune risorse se ne andranno in quella maniera. Io credo che gli allenatori scelti in questi anni dalla Juventus, con l'eccezione forse di Ferrara, che forse non era pronto, non siano stati scelti male. Credo che invece ci siano state delle scelte sbagliate sui giocatori. Ne cito due in questa stagione. Secondo me sono due cose da errori che una volta si insegnavano con la matita blu nei compiti in classe, non con la matita rossa. Uno è Martinez in estate e uno è Toni a gennaio. Cioè, non sono cose da Juventus, secondo me queste. Riccardo Catania, buongiorno. Buongiorno, dottor. No, io chiamavo per sottolineare una cosa. Si parla sempre che dovremmo rispecchiarci sul calcio inglese, e questo è giusto. Ma il calcio inglese prevede che tutte le partite vengano giocate col massimo impegno anche a fine campionato. Invece Catania ha fatto una bella partita con la Roma, anche perché i giocatori volevano salutare il pubblico. Insomma, si è impegnato. Quasi quasi in qualche commento televisivo ho colto che insomma questo impegno è sembrato una cosa strana, mentre dovrebbe essere la cosa normale, perché le partite sono 38 e tu 38 gare devi giocare. O vogliamo, diciamo, la buffonata del Bologna, del Cagliari, che hanno smesso di giocare, diciamo, all'inizio del girone del ritorno. Ma allora non, diciamo, mi sembra una cosa che è assolutamente contrastante: praticare bene fa solare molto male. Certo, lei prenda la targa di chi ha commentato Catania-Roma in quel modo e magari, non so, si rivolga ad altre fonti, cioè si abbeveri ad altre a qualcun altro che abbia una diversa cultura sportiva. Catania giocava, certo che era salvo, ma non si vede perché avrebbe dovuto dire alla Roma, con cui tra l'altro c'è una rivalità recente abbastanza feroce, prego s'accomodi. Io ho apprezzato, di domenica mi ha colpito di più l'atteggiamento del Palermo, che è stato esemplare a Genova, ma è stato esemplare da tutti i punti di vista, secondo me, perché il Palermo ha giocato onestamente, sportivamente e seriamente. diciamo che tra la formazione iniziale e l'atteggiamento nel secondo tempo, quando la Sampdoria era palesemente saltata per aria, beh, insomma, ha fatto, come dire, ha fatto di tutto per non infierire. Credo che sia stato un atteggiamento responsabile, tenuto conto anche del clima della cornice e del dramma sportivo che stavano vivendo gli avversari. Quello è un comportamento difficile, quello che ha dovuto adottare il Palermo domenica, quello che ha adottato il Catania, che ripeto, tra l'altro la Roma c'era leggermente di traverso da qualche anno a questa parte, da 1-0-7 all'Olimpico, è stato corretto, ma fa parte di quello che era inevitabile che fosse, insomma. Da Bologna, Enrico, buongiorno. Buongiorno. Sono tifoso interista, quindi come prima cosa volevo comunque dire che sono assolutamente d'accordo con lei per quanto riguarda la valutazione dell'operato di Allegri che ha fatto prima. In secondo luogo volevo dire, per quanto riguarda il discorso del giovani, ci sono stati giovani interessanti, rosa dell'Inter, che però non ha avuto spazio sufficiente. Mi riferisco soprattutto a Obi e Coutinho, per esempio anche in queste ultime due partite non so per quale ragione, visto che tanto comunque è stato acquisito, non si è fatto giocare questo ragazzo, soprattutto nel suo ruolo, visto che Sneijder era infortunato. Ecco, questi sono messaggi secondo me che per i giovani in rosa sono assolutamente negativi. Sono d'accordo con lei, Enrico, la ringrazio. Farei partire la sigletta del Giro d'Italia. Voci dal Giro. Oggi ascoltiamo la voce di Alessandro Petacchi, che sui 159 chilometri da Termoli a Teramo, dopo la giornata di riposo, ha una delle ultime occasioni per piazzare la sua ruota davanti a quella dei colleghi e rivali velocisti. Penso che è una delle poche opportunità che rimangono. Penso che oggi a Ravenna per noi sprint siano le ultime due tappe, quindi si cercherà di sfruttarle al meglio. Io ho già vinto una tappa e chi è venuto a questo giro per vincere chiaramente vorrà arrivare in volata e provarci. Io insieme a Ondo e Righi, che fa quello che è possibile, corridore con una grande esperienza, però Danilo nel finale per me fa sempre un grandissimo lavoro e si è visto anche negli altri giorni, soprattutto la tappa di Parma. Penso che se non ci fosse stato lui ero rimasto un po' dietro, non avrei potuto fare la volata che ho fatto, insomma. Voci dal Giro. Tony, scrive un ascoltatore che si firma Riccardo, è un errore da segnare con matita blu ma anche con quella rossa, cioè segniamolo in tutte le maniere, scrive Riccardo, perché in estate era stato mandato via Trezeguet con tanto di buona uscita per raggiunti limiti di età. Sì, quello è stato forse un errore di una. Poi non ha inciso più di tanto, forse nella stagione, ma insomma è giusto per dire che la Juventus quest'anno ha anche navigato a vista a livello dirigenziale, non soltanto a livello di guida tecnica e di giocatori, che pure ne hanno combinate più di carne in Francia. Fine trasmissione anche per oggi, grazie a Fabio Cantadoni in regia, a Franco Piantanini in redazione, buon pomeriggio.